Dunque, buonasera a tutti, questa è la quinta lezione del seminario su Michel Foucault. Oggi, stasera, in queste due ore, un po' meno, andremo a concludere il lavoro fatto sul testo che è stato introdotto la volta scorsa, che è Le parole e le cose. Come avevo accennato la volta scorsa, Le parole e le cose ha una struttura pressoché simmetrica, per cui la prima metà del libro è dedicata all'analisi dell'episteme rinascimentale, dell'episteme dell'età classica, che avevamo categorizzato appunto nel periodo rinascimentale. Foucault lo situa la sua fine nella prima metà del 1600, quindi episteme rinascimentale, episteme classica che si colloca dalla prima metà del 1600 sino circa alla fine del 1700. Oggi andremo invece a vedere l'episteme della modernità, quindi l'età moderna, dalla fine del 1700 alla contemporaneità. Vedremo il confronto che Foucault ha nel 1966, anno di stesura di questo testo, con alcuni autori quasi contemporanei dell'immediato passato della filosofia. Vedremo il confronto di Foucault tra le sue posizioni del 1966 e alcune delle correnti di pensiero dominanti dell'epoca, e soprattutto cercheremo di rispondere alla domanda, che è la domanda fondamentale di questo libro, cos'è l'archeologia delle scienze umane, sottotitolo del libro, cioè perché a un certo punto della cultura occidentale sono comparse quelle cose che si chiamano scienze umane, per cui di conseguenza è comparso un determinato tipo di oggetto che si chiama uomo, l'uomo forse come noi lo intendiamo ora. In seguito ad alcune domande, discussioni che erano state poste dopo la fine della passata lezione del seminario, vorrei riprendere all'inizio di questo appuntamento il concetto di episteme. In che senso? La volta scorsa, andando un po' velocemente, probabilmente avevo generato anche della confusione. Primo punto, l'episteme è un concetto, è una parola greca. L'episteme greca non è assolutamente l'episteme foucaultiana. L'episteme greca ha un ruolo importante nella produzione platonica e ha come suo dirimpettaio, come contraltare, un altro concetto che è rimasto, che è la doxa, ovvero l'opinione. Mentre l'opinione è il giudizio non elaborato, non razionale, stereotipato, aleatorio sul mondo, è la formulazione della frase non scientifica, non valida, l'episteme occupa nel pensiero platonico un ruolo superiore. È sempre fuorviante parlare in termini greci di scienza, perché noi arriviamo con una stratificazione del concetto di scienza che nasce in Grecia 2500 anni fa, ma che sicuramente non è quello attuale. Però per analogia, quando si va a tradurre episteme, se non si lascia la parola episteme stessa, scienza, cioè un apparato discorsivo che conserve una certa forma di razionalità, rimane. Questo quindi nel pensiero platonico. L'episteme è una conoscenza valida, potremmo dire adesso intersoggettiva, vera e universale, aggiungerei. In Foucault l'episteme è qualcosa di completamente diverso. Innanzitutto, da un breve scambio di parole, da un accenno che avevo fatto nella lezione scorsa, l'episteme è la prima elaborazione teorica di un concetto, non direi, perché a livello lessicale, anche a livello concettuale, le sfumature sono tante e non c'è una precisione di significato, non c'è una definizione univoca che Foucault porti avanti per tutta la sua opera, però è possibile tracciare in maniera abbastanza chiara l'episteme come momento fondativo, come prima individuazione lessicale di un qualcosa che poi nei 10 anni successivi diventa il discorso e che poi dopo questi 10 anni diventa il dispositivo. Sono andato a cercare in testi minori foucaultiani un paio di definizioni di episteme che vanno un po' a completare quello che avevamo detto la volta scorsa. Ripeto, episteme in senso foucaultiano in questo caso. Questa definizione del 1972, in un dialogo con Giulio Preti, filosofo neocantiano italiano, dialogo tra sordi, tra l'altro, o meglio, dialogo tra un sordo, Preti, e un filosofo, Foucault, perché da questo dialogo si evince come la ricezione del Foucault degli anni 60 in Italia fosse totalmente fuorviata. E qua c'è una definizione assolutamente sintetica di episteme. Quando parlo di episteme, intendo i rapporti che sono esistiti in una certa epoca tra i differenti domini della scienza. Siccome le parole appunto in Foucault sono spesso importanti, anche se sono semplici, le episteme sono i rapporti esistiti in una certa epoca fra differenti domini della scienza, quindi abbiamo più livelli. Innanzitutto c'è una definizione di epoche, l'abbiamo vista, il Rinascimento, età classica, età moderna. Gli sfondi, le certe epoche di cui si parla qua sono queste tre epoche. Tra entità, cosa sono queste entità di cui parla Foucault che sono messe in relazione da un'unica episteme? Sono i domini della scienza. Qua Foucault sta probabilmente utilizzando scienza in un termine vasto, scienza nel senso di conoscenza valida, universalmente accettata all'interno di una determinata epoca, scienza anche come appunto sistema razionale con un determinato valore di verità. Quello che è interessante però è che non dica tra la scienza, ma dica tra i differenti domini della scienza. Cioè l'episteme è quel sistema di rapporti che va a connettere, diremmo in un linguaggio che è un po' improprio, scienze differenti, domini scientifici differenti, biologia in una mano, fisica in un'altra mano, che però secondo Foucault si appoggiano su una rete di relazioni comuni, su quello che la volta scorsa era stato chiamato a priori storico, che fa sì che benché siano discipline scientifiche, biologia e fisica, sto inventando, tuttavia ci sia uno sfondo comune che fa sì che ci siano tutta una rete di relazioni omologhe tra questi domini. Questo è l'episteme. Andando avanti, nell'intervista a Trombadori, che già Antonio Caroni aveva citato precedentemente del 1980, intervista in cui si trovano tanti punti, passaggi in cui Foucault riflette, va a riflettere sulla sua produzione, cita questo: in questo libro, Le parole e le cose, ho voluto paragonare tre pratiche scientifiche, vedremo dopo quali. Per pratica scientifica intendo una certa maniera di regolare e costruire discorsi che definiscono un dominio particolare di oggetti e determinano allo stesso tempo il luogo del soggetto ideale che deve e può conoscere questi oggetti. Qui la definizione è molto più raffinata ed è molto più precisa in effetti. Allora, e apre delle prospettive sul concetto di episteme che vanno sicuramente oltre a quello che stavamo dicendo prima. Quindi per pratica scientifica, non è questo quello che ci interessa nel senso proprio, intendo una certa maniera di regolare e costruire discorsi, l'episteme è ciò che connette questi discorsi, ripeto, che definiscono un dominio particolare d'oggetti. Quindi una relazione fra il discorso che definisce un dominio di oggetti e delimita un dominio di oggetti, ma soprattutto e determinano allo stesso tempo il luogo del soggetto ideale che deve e può conoscere questi oggetti. Quindi abbiamo questa triangolazione che si colloca sullo sfondo dell'episteme, sempre, anzi che è l'episteme, direi, triangolazione in cui qua individuiamo tre poli: i soggetti, gli oggetti e le pratiche scientifiche che li connettono. Noi non possiamo pensare questi tre ambiti separati gli uni dagli altri, ovvero abbiamo una tipologia di soggetto, cioè abbiamo un momento in questa storia del soggetto, in questa genealogia del soggetto che stiamo facendo, che andrà a dipendere dagli oggetti che vengono generati dalle pratiche scientifiche dominanti. Ripeto, quindi, abbiamo un mondo di pratiche scientifiche che generano degli oggetti, in base agli oggetti che vengono generati abbiamo dei soggetti. Non dobbiamo pensare questo come linee di causalità rigide, dobbiamo pensare questo in maniera forse più sistematica, come sistemi connessi che vanno a collocarsi appunto su uno sfondo che è quello epistemico. Del discorso oggi non parlo, perché del discorso parleremo nelle prossime tre lezioni, sarà uno dei punti fondamentali di questo seminario. Però vorrei introdurre come linea di evoluzione rispetto a quello che abbiamo iniziato a introdurre riguardo le parole e le cose, un concetto foucaultiano nuovo, che è quello di dispositivo. Nuovo nel senso che non è ancora arrivato assolutamente in nessuna maniera nel 1966, è una parola che inizia ad apparire negli anni 70, è una parola che Foucault definisce in maniera piuttosto estesa, senza però andare in profondità, in un'intervista nel 1977, e che rimarrà per lui successivamente uno dei concetti operativi fondamentali. E probabilmente se sia Giorgio Agamben sia Gilles Deleuze hanno intitolato un libro Che cos'è un dispositivo, probabilmente questo è stato uno degli ultimi concetti, o meglio, uno dei concetti fondamentali dell'ultima produzione foucaultiana. In questa intervista del 1977, prima di aprire una parentesi sul dispositivo e di iniziare a spiegare che cosa sia il dispositivo, Foucault introduce il dispositivo, fa un passaggio brevissimo sull'episteme, che però è chiaro. 1977, quindi. L'episteme è un dispositivo specificamente discorsivo, a differenza del dispositivo che è esso stesso discorsivo e non discorsivo. Quindi l'episteme ha sicuramente una relazione con l'ambito del discorso. Okay? Cos'è però questo dispositivo non discorsivo di cui va a parlare Foucault? Qua leggo alcuni passaggi della definizione che dà nel 1977, quindi in questo momento stiamo proprio esulando dalle parole e le cose, però è per iniziare ad accennare una delle dorsali di pensiero che saranno fondamentali nel prossimo mese, mese e mezzo. Ciò che io cerco di individuare con questo nome è un insieme assolutamente eterogeneo che implica discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche, in breve, tanto del detto che del non detto. Ecco gli elementi del dispositivo. Il dispositivo è la rete che si stabilisce fra questi elementi. Col termine dispositivo intendo una specie di formazione che in un certo momento storico ha avuto come funzione essenziale di rispondere a un'urgenza. Quindi, prima definizione del dispositivo. Ciò che è detto e ciò che non detto si riallaccia. Il dispositivo comprende entrambi gli elementi. Se vogliamo fare una forzatura, è già una forzatura che fa già Gilles Deleuze in maniera molto letta, il visibile e il dicibile strettamente intrecciati tra di loro. Quello che vediamo, quello che tocchiamo, il mondo del corpo, se vogliamo fare una cosa che né Deleuze né Foucault avrebbero detto, ma anche il mondo del pensiero, si intrecciano nel dispositivo. E qua abbiamo quasi una tassonomia settecentesca. Che cosa abbiamo nel dispositivo? Che cosa compone il dispositivo? Quali sono i suoi elementi? Discorsi. Istituzioni, strutture architettoniche, come esempio banale pensiamo alla scuola per declinare come esempio, o all'ospedale per declinare come esempio tipologie di dispositivo, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche. Sono tutti elementi che, se pensiamo agli esempi detti prima, la scuola, l'ospedale, il sistema carcerario di sorvegliare e punire, attraversano, tagliano questo di cui stiamo parlando. Secondo Foucault, il dispositivo è tutta la rete di relazioni che noi abbiamo e che legano in un unico insieme, che danno coerenza, compattezza a tutto quello che, a tutte queste entità eterogenee che compongono un determinato sistema, la parola un po' impropria però la usiamo, quindi che vanno a comporre una scuola, per cui la scuola non è fatta solo di scusate la banalità, di trasmissione della conoscenza, ma è fatta anche di strutture architettoniche, quella in cui siamo, è fatta anche di decisioni regolative, tutto l'apparato regolativo interno, tutto l'apparato regolativo che viene trasmesso, per esempio in questo caso dal Ministero e così via, tutto l'apparato legislativo, tutto l'apparato amministrativo e così via. Il dispositivo è la rete che si intreccia fra queste cose. Okay? Foucault qui nel 1977 sta dicendo che l'episteme è tutto l'apparato discorsivo, tralascia quello che è il non detto, tralascia quello che è il mondo del visibile. Foucault poi nella definizione di dispositivo, per andare retroattivamente a rileggere di nuovo l'episteme, dice anche un'altra cosa: intendo una specie di formazione che in un certo momento storico ha avuto come funzione essenziale di rispondere a un'urgenza. Quindi la formazione. Nel dispositivo c'è sempre una dimensione temporale, una dimensione di processo. Il dispositivo non è una cristallizzazione, ma è un'aggregazione che mantiene una propria coerenza, ma che comunque è sottomessa al tempo in una certa maniera. Il dispositivo, e qua penso che inizi ad essere chiaro, non è mai qualcosa di sostanziale o che appartiene al fondamento, ma è qualcosa che emerge nella storia, è qualcosa che emerge nel tempo. Perché emerge nel tempo? Di nuovo Foucault ce lo dice, ma perché? Ma non ci dice perché accade. Come funzione essenziale di rispondere a un'urgenza. Il dispositivo è una forma che appare nella cultura umana, quindi secondo principi di coerenza, di più o meno completezza, e che permette di dare una forma a un fenomeno magmatico che sta emergendo, qualcosa che sta facendo pressione dal basso verso l'alto e che chiede di essere formato, di assumere una forma, di essere istituzionalizzato. Ok? 1977 però, qua gli 11 anni che passano dalle parole alle cose a queste definizioni sono tanti. Quando Foucault parla di episteme, in questo caso ha già fatto uno sviluppo consistente del suo pensiero, per cui l'episteme di cui parla nelle parole alle cose non è l'episteme associata al dispositivo di cui parla adesso in senso stretto. Ultimo punto sull'episteme che vorrei accennare. L'episteme non è qualcosa di astratto, l'avevamo detto la volta scorsa, ma taglia trasversalmente il mondo in cui viviamo. L'episteme non è una teoria pura. L'episteme non è un apparato teorico che ci sovrasta. L'episteme è ciò che fonda un apparato teorico eventuale che ci sovrasta. E quindi quando noi parliamo di episteme, stiamo collocando l'episteme su un ambito che è intermedio fra quello della vita allo stato grezzo e del pensiero concettuale puro astratto cristallino. Stiamo parlando in un mondo in cui teorie e pratiche rimangono comunque fluide, di un mondo che taglia la nostra esistenza. Volevo fare questa introduzione per chiarire questo punto e per far vedere come questo punto, perché Foucault negli anni immediatamente successivi a questo testo abbandona il concetto di episteme e conia un altro concetto, non conia da zero perché qua già appare, però inizia ad utilizzare massicciamente un altro concetto che è quello di discorso, che forse probabilmente più raffinato e più potente, che va a sostituire quello di episteme, pur con tutti gli ondeggiamenti concettuali e con quella anche volontà di non definire e fossilizzare il concetto in sé. Dopo questa introduzione però vorrei tornare alle parole e alle cose. Ho inviato un testo che poi verrà digitalizzato, verrà scansito, che è piuttosto lungo. Di questo testo vorrei far emergere alcuni momenti fondamentali con l'obiettivo di coprire l'arco temporale, appunto, come dicevo all'inizio, che va dalla fine del XVIII secolo fino alla contemporaneità della stesura di questo testo, e far emergere alcuni degli aspetti fondamentali che sono trattati qui. Quindi non seguirò tutto lo sviluppo in maniera precisa, ma cercherò di dare degli spunti su tutta una serie di elementi che mi sono parsi essere i più significativi all'interno del testo per far comprendere come a un certo punto siano nate le scienze dell'uomo e quindi con le scienze umane sia nato qualcosa che si chiami uomo. Per partire vorrei iniziare da un primo punto, che è quello della rottura della rappresentazione e del passaggio a un'episteme nuova. Oggi parleremo solo di un'episteme nuova, che è l'episteme della modernità, e far capire in questo primo punto cos'è quello che viene dopo la rottura della rappresentazione. Leggo un passaggio che troviamo a pagina 256 dell'edizione che ho messo in copertina. Nella grammatica generale, nella storia naturale, nell'analisi delle ricchezze, che avevamo detto essere la volta scorsa le tre linee principali e che oggi sviluppiamo molto di più, si è dunque prodotto intorno agli ultimi anni del secolo XVIII un evento che dappertutto è dello stesso tipo. I segni apposti alle rappresentazioni, l'analisi delle identità e delle differenze, che poteva così stabilirsi, il quadro, la Smininias come metafora, ma come anche concetto, il concetto del quadro su cui l'uomo dispone la sintesi delle rappresentazioni che ha appena analizzato, il quadro continuo e nello stesso tempo articolato che si instaurava nel pullulare delle similitudini, l'ordine definito entro le molteplicità empiriche, non possono più ormai fondarsi sulla sola duplicazione della rappresentazione nei confronti di se medesima. La rappresentazione, a un certo punto, alla fine del XVIII secolo, non è più valida, non basta più. A partire da tale evento, ciò che conferisce valore agli oggetti del desiderio, la linea delle ricchezze, non sono più soltanto gli altri oggetti che il desiderio può rappresentarsi, ma un elemento irriducibile a tale rappresentazione, ossia il lavoro. Quindi passiamo dall'analisi delle ricchezze a un altro livello, il livello del lavoro. Ciò che consente di caratterizzare un essere naturale non sono più gli elementi che possono essere analizzati sulle rappresentazioni che di esso e degli altri ci facciamo. Quindi non è più la tassonomia di Linneo, ma è un certo rapporto interno a tale essere e che viene chiamato la sua organizzazione. Quindi, seconda parola chiave che si introduce adesso. Ciò che consente di definire una lingua non è il modo in cui questa rappresenta le rappresentazioni, ma una certa architettura interna, una certa maniera di modificare le parole stesse a seconda della posizione grammaticale da essere reciprocamente occupata. Quindi un approccio alla questione del linguaggio completamente diversa. È insomma il suo sistema flessivo. Continuo perché dopo Foucault, a pagina 257, lavora ancora su questa differenza. Per saldare in un carattere definito, una struttura parziale, la visibilità di insieme di un essere vivente, occorre adesso riferirsi alle leggi puramente biologiche, le quali, indipendentemente da tutti gli indici segnaletici e come arretrate rispetto ad essi, organizzano i rapporti fra funzioni e organi. Gli esseri viventi non definiscono più le loro somiglianze, le loro affinità e le loro famiglie, a partire dalla loro descrittibilità dispiegata. Cioè, non stiamo più lavorando sulla descrizione di un mondo che viviamo, l'episteme dell'età classica. Hanno caratteri che il linguaggio può percorrere e definire giacché essi possiedono una struttura che è come il rovescio oscuro, voluminoso e interno della loro visibilità. Proprio continuando, alla superficie chiara discorsiva di questa massa segreta ma sovrana emergono i caratteri, sorta di deposito esterno alla periferia di organismi saltati ora su se stessi. Infine, quando si tratta di connettere la rappresentazione di un oggetto di bisogno a tutti quelli che possono figurare di fronte ad esso nell'atto dello scambio, bisogna ricorrere alla forma e alla quantità di un lavoro che ne determinano il valore. Ciò che gerarchizza le cose nei movimenti continui del mercato non sono gli altri oggetti o gli altri bisogni. Quindi, di nuovo, non abbiamo più questo piano su cui l'episteme classica aveva dispiegato le cose, o gli altri bisogni, ma bensì l'attività che le ha prodotte e che silenziosamente in esse si è sedimentata. Di nuovo stiamo andando a bucare un territorio. Come dice dopo, a pagina 258, e qua direi che possiamo estrapolare la prima parola chiave di questa frase, la rappresentazione perdette il potere di fondare, muovendo da sé medesima nel proprio dispiegamento in virtù del gioco che la duplica su sé medesima, nessi che possono unirne i vari elementi. Nessuna composizione, nessuna scomposizione, nessuna analisi in identità e in differenze, e qui abbiamo tutta la filosofia del 1600, abbiamo il lessico che, di Carteso del discorso sul metodo. Nessuna composizione quindi può più giustificare il nesso reciproco delle rappresentazioni. Questo bel piano su cui la rappresentazione delle cose veniva collegata crolla. L'ordine, parola chiave della volta scorsa, il quadro in cui quest'ultimo si spazializza, le prossimità che esso definisce, le successioni che autorizza come altrettanti percorsi possibili tra i punti della sua superficie, non sono più in grado di connettere le une alle altre le rappresentazioni o gli elementi di ciascuna di esse. Perché? Non il perché storico, ma il perché concettuale. La condizione di tali nessi risiede ormai fuori dalla rappresentazione. Il sistema di autorappresentazioni non è più in grado di autogiustificarsi, di autoreggersi, di là dalla sua immediata visibilità, in una sorta di retromondo più profondo e più denso di essa. Quindi noi andiamo a rompere con un movimento, con una frattura epistemologica, questo piano, questa bella superficie, questo quadro che l'età classica aveva composto, lo tagliamo e andiamo a vedere che cosa c'è dentro ogni singolo elemento. Lo buchiamo come la biologia buca il corpo, buca la pura visibilità, buca il dato esteriore del corpo. Lo buchiamo come l'analisi delle ricchezze, l'analisi della moneta non è più un gioco, un piano di rappresentazioni, ma si va a vedere verticalmente il sistema del lavoro che va a produrre il valore, che è la condizione di questo piano. Questo è il movimento grosso che Foucault individua alla fine del 1800, alla fine del 1700, e che costruisce l'età moderna. Per raggiungere il punto in cui si legano le forme visibili degli esseri, la struttura dei viventi, il valore delle ricchezze, la sintassi delle parole, bisogna dirigersi verso questa vetta, questa cuspide necessaria, ma inaccessibile, che si immerge al di fuori del nostro sguardo nel cuore stesso delle cose. Quindi l'episteme della modernità si inaugura con questo sguardo verticale che va a sondare le cose nella loro profondità e che trova la condizione d'essere delle cose non più su un piano visibile di rappresentazione, ma in un qualcosa che sta sotto, nel retromondo di cui parla prima. E quindi, in fondo a pagina 259, l'insieme degli elementi della natura resi contemporanei a se stessi, un'altra bella definizione dell'episteme classica, ripeto, l'insieme degli elementi della natura resi contemporanei a se stessi, tale spazio d'ordine sta ormai per essere spezzato. Prima vi saranno le cose, con la loro organizzazione, le loro nervature segrete, lo spazio che le articola, il tempo che le produce, e poi la rappresentazione, pura successione temporale, in cui esse si annunciano sempre parzialmente a una soggettività, a una coscienza, allo sforzo singolo di una conoscenza, all'individuo psicologico che dal fondo della propria storia, o muovendo dalla tradizione che gli è stata trasmessa, tenta di sapere. Quindi la costituzione della modernità va in questa nuova direzione. Le 150 pagine successive che tentiamo di vedere e di analizzare stasera cercano proprio di lavorare su questo incipit. Prima vi saranno le cose, poi la loro rappresentazione. Non abbiamo più l'episteme classica che, mi si passi la parola, si accontentava, riusciva a porre la rappresentazione delle cose su un piano sia di verità che di essere. Quindi, quando e come avviene questo passaggio? Il filosofo con cui si inaugura questo passaggio, che adesso andiamo ad articolare sempre di più, è sicuramente Kant, secondo punto della lezione di oggi. Qual è la questione fondamentale che emerge con il kantismo? Con il kantismo, se vogliamo, ma che è una delle questioni in nuce e una delle questioni importanti del discorso odierno, è il discorso sul limite. Cioè, con Kant si pone come fattore fondamentale di ogni ipotesi conoscitiva il limite. Il limite. E lo si pone esattamente in quel triangolo di cui parlavamo prima fra conoscenza, uomo e oggetti. Adesso proviamo a vedere cosa dice Foucault di Kant e in quale maniera si va a porre questa questione del limite. Kant, invece di fondare il nesso, scusatemi, tra le rappresentazioni, mediante una sorta di scavo interno che a poco le svuoti fino alla pura impressione, fine di pagina 261, egli lo stabilisce sulle condizioni che ne definiscono la forma universalmente valida. Quindi Kant va oltre l'empirismo che lo precede. Cioè Kant, l'obiettivo kantiano è muovere completamente oltre quel mondo di impressioni, se vogliamo parlare in un altro linguaggio, quel mondo di sensazioni che gli empiristi avevano cercato di sviscerare e che avevano lasciato Hume, forse veramente il più radicale, il più acuto, il più profondo degli empiristi, con un pugno di mosche in mano. Hume costruisce fa un'analisi stupenda, raffinatissima, decostruisce, va a fondo per poi trovarsi cosa? Per trovarsi con un fascio di sensazioni scollegate tra di loro. Kant conosce bene la lezione di Hume e cerca di andare oltre questo fascio di sensazioni. Una delle operazioni forti è questa. Egli, Kant, stabilisce le condizioni che cerca di stabilire, le condizioni che rendono una conoscenza valida. Orientando in tal modo il problema, Kant circoscrive la rappresentazione e ciò che in essa è dato per dirigersi verso ciò a partire da cui ogni rappresentazione, quale che sia, può essere data. L'operazione kantiana, riassunta qui in tre righe, è assolutamente radicale. Kant circoscrive la rappresentazione e ciò che in essa è dato, ok? Se vogliamo lavorare proprio su un livello semplice, circoscrivo la rappresentazione in quanto contenuto verso ciò per dirigersi, verso ciò a partire da cui ogni rappresentazione, quale che sia, può essere data. Quindi non è più la rappresentazione che giustifica se stessa, non è più il fatto, scusatemi, di nuovo, esempio banale, ma il fatto che questo io possiedo la rappresentazione di questo oggetto che ne garantisce la condizione di passibilità, la condizione di possibilità che io possa avere una conoscenza valida di questo oggetto. In Kant il processo è l'inverso, è l'individuazione nell'uomo delle condizioni di possibilità per cui si può dare questa rappresentazione. E quindi c'è un'inversione fondamentale. Io non trovo più qua sul piano del contenuto la possibilità di esistenza del contenuto stesso. Io trovo delle condizioni di possibilità che sono assolutamente a un livello oltre e diverso rispetto a quello del piano del contenuto, e in cui il contenuto, per provare la propria validità, deve andare a porsi. Queste condizioni di validità, queste condizioni di possibilità, sono condizioni che risiedono nell'uomo. E quindi, andando oltre questo punto, sempre continuando sulla lettura foucaultiana, pagina 263, la parola che si dà per definire questo piano di condizioni di possibilità era già stata introdotta, è il piano di del trascendentale. In che senso il piano del trascendentale? Vado a leggere un passaggio abbastanza lungo che però costituisce uno dei nodi fondamentali di questo discorso. L'una, poi andremo a vedere cosa, interroga le condizioni di un rapporto fra le rappresentazioni sotto l'angolatura di ciò che le rende in genere possibili. Pone così allo scoperto un campo trascendentale in cui il soggetto, che non è mai dato all'esperienza, non essendo empirico, ma che è finito, non essendo l'intuizione intellettuale, determina nel suo riferimento a un oggetto X tutte le condizioni formali dell'esperienza in genere. È l'analisi del soggetto trascendentale che libera il fondamento di una sintesi possibile tra le rappresentazioni. Quindi, prima l'una si intende come prima interrogazione sul concetto di trascendentale. Quindi, la prima maniera di approcciarci è questa. Interrogare le fondazioni di un rapporto tra la rappresentazione, cioè come noi possiamo andare a collegare contenuti differenti sotto l'angolatura di ciò che le rende possibili, ovvero per tentare di rispondere alla domanda come possiamo conoscere, come possiamo pensare qualcosa. Okay? Kant, in questa maniera, pone allo scoperto un campo trascendentale in cui il soggetto, che non è mai dato all'esperienza, non essendo empirico, cioè il soggetto non si pone sul piano delle rappresentazioni, non si pone sul piano delle cose, ma che è finito, determina nel suo riferimento un oggetto tutte le condizioni formali dell'esperienza in genere, cioè è nel soggetto che va a risiedere la condizione di possibilità della conoscenza, la condizione di possibilità della conoscenza dell'oggetto. È l'analisi del soggetto trascendentale che libera il fondamento di una sintesi possibile tra le rappresentazioni. Quindi è quando andiamo a porre il soggetto, è quando andiamo a vedere il soggetto, che noi possiamo comprendere come possiamo collegare tra di loro le rappresentazioni. Primo punto fondamentale kantiano. Secondo punto. Di fronte a una tale apertura sul trascendentale e simmetricamente ad essa, una forma diversa di pensiero interroga le condizioni di un rapporto fra le rappresentazioni, sotto l'angolatura dell'essere stesso che vi si trova rappresentato. Ciò che all'orizzonte di tutte le rappresentazioni attuali si indica da sé in quanto fondamento della loro unità. Sono quegli oggetti mai oggettivabili, quelle rappresentazioni mai interamente rappresentabili, quelle visibilità un tempo stesso, manifeste ed invisibili, quelle realtà che permangono in secondo piano, appunto perché fondatrici di ciò che si dà e si inoltra fino a noi. Cosa sono queste cose che si pongono di fronte all'apertura sul trascendentale e che costituiscono il secondo momento fondamentale di sviluppo a partire da Kant? La potenza del lavoro, la forza della vita, il potere di parlare. Cioè, Foucault individua in questo momento in cui il soggetto si arroga, diventa la condizione di possibilità della conoscenza, il momento in cui nascono come dirimpettai quello che viene definito qui, quegli oggetti mai oggettivabili. Ne parla dopo di come dei semi trascendentali Foucault, quelle rappresentazioni mai interamente rappresentabili, quelle visibilità a un tempo manifeste ed invisibili, quelle realtà che permangono in secondo piano, appunto perché fondatrici di ciò che si dà e si inoltra fino a noi. Di nuovo, quali sono? La potenza del lavoro, la forza della vita, il potere di parlare. Il lavoro, la vita e la parola. Probabilmente tre costanti del pensiero occidentale, ma che di cui si sono dati tanti travestimenti linguistici, ma che all'inizio dell'episteme della modernità diventano fattori assolutamente fondamentali. E come dice dopo, le condizioni di possibilità dell'esperienza vengono in tal modo ricercate nelle condizioni di possibilità dell'oggetto e della sua esistenza, mentre nella riflessione trascendentale le condizioni di possibilità degli oggetti dell'esperienza vengono identificate con le condizioni di possibilità dell'esperienza medesima. Per concludere, la nuova positività delle scienze della vita, del linguaggio e dell'economia è correlativa all'instaurazione della filosofia trascendentale. Quindi, le condizioni di possibilità dell'esperienza vengono ricercate nella condizione di possibilità dell'oggetto e della sua esistenza. Punto primo, non possiamo darci esperienza senza avere una dimensione dell'oggetto, mentre dall'altra parte nella riflessione trascendentale le condizioni di possibilità degli oggetti dell'esperienza vengono identificate con le condizioni di possibilità dell'esperienza. È fondando l'ambito del trascendentale che noi vediamo emergere questa tripartizione economia, biologia, linguaggio, detto in altre maniere, lavoro, vita, parlare. Ok? Questo snodo fondamentale dell'ambito kantiano che nasce con Kant, lavoro, vita e parola, costituisce il punto di partenza in questo testo di una riflessione che va a continuare in maniera più analitica nei momenti successivi. Dato questo scenario, dato questo punto di svolta, quali sono gli elementi che emergono a partire da questa archeologia delle scienze umane che Foucault sta facendo sulle discipline caratteristiche della modernità? Qua adesso andiamo a trattare un terzo punto. Sì? Sono le 7, perfetto. Che è quello dell'organizzazione delle scienze. La domanda che andiamo a porci in questo momento è: come è possibile che siano nate a un certo punto delle scienze e che queste scienze che noi conosciamo abbiano questa particolare fisionomia? Leggo da pagina 266. Alla fine del XVIII secolo una partizione fondamentale e nuova si produce. Ora che il nesso delle rappresentazioni non si stabilisce più nel modo stesso che le scompone, le discipline analitiche vengono ad essere epistemologicamente distinte da quelle che devono ricorrere alla sintesi. Con Kant abbiamo come conseguenza anche questa divisione fra discipline analitiche e quelle che devono ricorrere alla sintesi, ovvero le discipline che hanno bisogno dei dati empirici del mondo e quelle, le analitiche, che invece non hanno bisogno per certi versi dei dati empirici del mondo. Quindi il doppio binario delle scienze sarà questo. Avremo pertanto un campo di scienze a priori, di scienze formali e pure, di scienze deduttive, le quali sono di pertinenza della logica e della matematica. Punto primo, tutta una branca dell'apparato scientifico che ci viene consegnato che va a svilupparsi. D'altro canto, vediamo liberarsi un campo di scienze a posteriori, di scienze empiriche, le quali utilizzano le forme deduttive solo frammentariamente e in regioni strettamente localizzate. Quindi in un discorso epistemologico piuttosto denso, quello che sta facendo Foucault in questo momento, l'origine di una possibile separazione, meglio, dell'ambito scientifico trova qui il suo momento. Ora, tale divisione fra scienze analitiche a priori e scienze a posteriori empiriche ha come conseguenza la preoccupazione epistemologica di ritrovare a un livello diverso l'unità che è stata perduta con la dissociazione della matesis e della scienza universale dell'ordine. Quindi, nel momento in cui la scienza dell'ordine è esplosa, si è scissa, Foucault sta dicendo qui che c'è un tentativo poi di andare a lavorare sulla ricomposizione di questa scissione. Di qui un certo numero di sforzi che caratterizzano la riflessione moderna sulle scienze. E questo è un punto veramente significativo. Ossia, la classificazione dei campi del sapere a partire dalla matematica e la gerarchia che viene instaurata per procedere gradualmente verso il più complesso e il meno esatto. Quindi, primo punto, abbiamo un livello, una soglia, una costante, che è quella che viene datata dalla matematica, e quindi una gerarchia che si stabilisce in base alla relazione tra la singola disciplina scientifica e il livello della sua matematizzazione. Verso, e qua l'intuizione di Foucault è veramente singolare, il più complesso e il meno esatto. Cioè siamo su un piano epistemologico in cui complessità ed esattezza non vanno nella stessa direzione. La riflessione, secondo punto, sui metodi empirici dell'induzione e lo sforzo per fondarli filosoficamente e nello stesso tempo giustificarli da un punto di vista formale. Induzione, operazione di pensiero già ben conosciuta dai greci, in cui dal caso particolare si trae la legge universale, in cui dall'analisi di un determinato momento io sono uno singolo, sono in grado di estrarre la legge universale che lo governa, opposto alla deduzione per cui ho prima la legge universale che mi permette di indagare il singolo momento. E quindi cosa sta dicendo Foucault? In questo scenario di frattura tra scienze empiriche e scienze analitiche, un ulteriore momento di tentativo di ricomposizione sarà quello che cercherà di portare l'induzione all'interno di un apparato formale che la giustifichi. Cioè di capire come noi, nell'osservazione di un singolo caso, possiamo andare ad estrarre leggi universali. Terzo punto, il tentativo di purificare e formalizzare e forse matematizzare i campi dell'economia, della biologia e infine della stessa linguistica, nervo assolutamente scoperto dal punto di vista epistemologico. Ovvero, come andiamo a lavorare, come andiamo ad applicare la matematica, come andiamo ad applicare le scienze analitiche a territori che difficilmente si lasciano sottomettere a questa legge, difficilmente lasciano che ci sia una possibilità di quantificazione matematica e di traduzione formale in termini matematici di questi territori. Per cui abbiamo questi ambiti ibridi di sapere in cui c'è una possibilità di matematizzazione, ma allo stesso tempo questa possibilità di matematizzazione non è matematizzazione rigida, è qualcosa che è perennemente instabile. E Foucault poi fa un'osservazione quasi en passant, ma veramente radicale e cattiva. Quale contrappunto tali tentativi, ripeto tentativi, i tre tentativi di cui parlavamo prima, classificazione in base alla matematica, tentativo di inserire l'induzione e tentativo di applicare la matematizzazione ad ambiti specifici che difficilmente si lasciano matematizzare, quale contrappunto tali tentativi di ricostruire un campo epistemologico unitario affiora a intervalli regolari l'affermazione di un'impossibilità? E questo è un punto interessante. Cos'è questa impossibilità? Questa sarebbe dovuta sia, punto primo, ad una specificità irriducibile della vita. Cioè, all'inizio dell'epistemologia moderna c'è questa difficoltà di pensare che la vita possa essere razionalizzata, che si cerca di circoscrivere soprattutto agli inizi del XIX secolo, sia al carattere particolare delle scienze umane, le quali resisterebbero a ogni riduzione metodologica. Tale resistenza si cerca di definirla e misurarla soprattutto nella seconda metà del XIX secolo. Quindi scienze umane che probabilmente come ambito si sottrarrebbero a una riproduzione di metodo forte operati dall'apparato scientifico e che quindi lascerebbero che ci sia sempre qualcosa che sfugge, che probabilmente altri territori che non andremmo a chiamare scienze potrebbero analizzare, probabilmente per esempio l'arte. Probabilmente in questa duplice affermazione alternato simultanea di potere e di non potere formalizzare l'empirico, bisognerà riconoscere il tracciato di quell'evento profondo che sul finire del XVIII secolo ha staccato dallo spazio della rappresentazione la possibilità della sintesi. Come dice dopo, a partire dal XIX secolo l'unità della matesis, questo sogno astratto dell'uomo di poter porre su un piano razionale l'universo mondo, questa cosa che ritroviamo veramente come chimera umana, quello che troviamo all'inizio del ciclo della Fondazione Terra di Asimov, quando uno scienziato, Sheldon, pensa di poter scrivere l'equazione o il complesso di equazioni che siano in grado di gestire l'universo e siano in grado di gestire tutto il futuro. Asimov è un uomo del XX secolo e userà una parola che qui è impropria, che è il caso, la comparsa del personaggio del mulo nel ciclo della Fondazione Terra per rompere questo sogno di una possibile matesis. Asimov è anche un positivista, ma questo è un altro discorso. Quindi l'unità della matesis è spezzata, due volte spezzata. Anzitutto lungo la linea che divide le forme pure dall'analisi, scusatemi, vi leggo. Anzitutto lungo la linea che divide le forme pure dell'analisi dalle leggi della sintesi. Quindi una linea di frattura è questa. Il mondo delle forme pure dell'analisi, le leggi della sintesi. Sintesi si intende tutto quel mondo di conoscenza che vuole, che include la conoscenza empirica, l'adattività del mondo. E dall'altro canto, lungo la linea che separa, quando si tratta di fondare le sintesi, soggettività trascendentale e dal modo d'essere degli oggetti. Ripeto, seconda linea di rottura quando si spezza il sogno della matesis. La linea che separa quando si tratta di fondare le sintesi, la soggettività trascendentale dal modo d'essere degli oggetti. Ritorniamo all'episteme classica. C'era un livello di rappresentazione in cui oggetti e uomo si incontravano. Adesso, con la nascita della modernità, abbiamo un disallineamento. Il mondo dell'uomo e il mondo degli oggetti si separano perché c'è una frattura che abbiamo appena commentato. Abbiamo il mondo della soggettività trascendentale, che Kant pone come condizione di possibilità di esistenza, di conoscenza degli oggetti, e abbiamo il modo d'essere stesso degli oggetti. Abbiamo il cogito ergo sum di Cartesio definitivamente spezzato, ovvero il mondo del cogito e il mondo del sum, come adesso andiamo a vedere, prendono due strade differenti. Il mondo del pensare e il mondo dell'essere si disallineano. Adesso andiamo a vedere come si sviluppa questo disallineamento e come si vive nel XIX secolo questa frattura. Facciamo un balzo in avanti rispetto a quello che è la trattazione foucaultiana e andiamo a riprendere, per chi ha le fotocopie in mano, a pagina 335 l'analisi del discorso nell'età classica, per riprenderlo come premessa di quelli che sono poi i quattro punti fondamentali trattati all'interno di questo testo. Stiamo parlando di nuovo adesso dell'episteme classica, è una premessa abbastanza doverosa rispetto a quello che viene detto dopo. Nel punto d'incontro fra la rappresentazione e l'essere, laddove natura e natura umana si incrociano, il pensiero classico fa sorgere il potere del discorso. Nel pensiero classico il discorso si pone, appunto, dove la rappresentazione e l'essere, dove la natura, il fuori da noi, il mondo degli oggetti, e la natura umana, noi, il soggetto, ci incontriamo. Il luogo è il potere del discorso, cioè del linguaggio, in quanto rappresenta, del linguaggio che nomina, ritaglia, combina, annoda e scioglie le cose, facendole vedere nella trasparenza delle parole. In tale funzione il linguaggio trasforma la sequenza delle percezioni in quadro e di rimando ritaglia il continuo degli esseri in caratteri. È il linguaggio questo strumento dell'episteme classica, è la parola, poi dirà addirittura il nome, che permette di ordinare così bene sul quadro il mondo. Perché nel momento in cui io nomino, stabilisco quel sistema di identità e di differenze che mi permette, nel vasto panorama delle rappresentazioni, di mettere in relazione le cose tra di loro. Dove esiste discorso, le rappresentazioni si dispiegano e si giustappongono, le cose si raggruppano e si articolano. È il metodo di Cartesio, che prima spezza, poi enumera, poi ricompone e poi sintetizza e poi revisiona. La vocazione profonda del linguaggio classico è sempre stata di far quadro, in forma di discorso naturale, raccolta della verità, descrizione delle cose, corpo di conoscenze esatte o dizionario enciclopedico. L'enciclopedia, detta dell'illuminismo, è ancora una modalità di fare quadro, una modalità di mettere le rappresentazioni e le etichette linguistiche che associamo alle rappresentazioni in connessione tra di loro. Il linguaggio classico esiste quindi solo per essere trasparente, non è un problema. Ha perduto la consistenza segreta che nel XVI secolo lo espressiva in una parola da decifrare e lo collegava alle cose del mondo, quello che si diceva la volta scorsa, il linguaggio e le cose sullo stesso piano e quasi tutte queste porte segrete che permettevano di passare dal mondo del linguaggio al mondo delle cose, il mondo di Paracelso di cui parlava Agamben. Lo espressiva in una parola da decifrare, lo collegava alle cose del mondo. Non ha ancora acquistato l'esistenza multipla su cui oggi ci interroghiamo. Nell'età classica il discorso è la necessità traslucida attraverso la quale passano la rappresentazione e gli esseri. Quando gli esseri sono rappresentati allo sguardo della mente, quando la rappresentazione rende visibili gli esseri nella loro verità. La possibilità di conoscere le cose e il loro ordine passa nell'esperienza classica attraverso la sovranità delle parole. Queste a rigore non sono né contrassegni da decifrare né strumenti più o meno fedeli e padroneggiabili, formano piuttosto il reticolo incolore a partire dal quale gli esseri si manifestano e le rappresentazioni si ordinano. Come continua dopo? Finché tale linguaggio parlò nella cultura occidentale, pagina 336, non fu possibile che l'esistenza umana fosse problematizzata per se stessa. dal momento che ciò che in esso si saldava era la rappresentazione e l'essere. Il sistema nell'episteme classica funzionava, era semplice. Avevamo il livello dell'essere, il livello del soggetto, avevamo il mondo delle rappresentazioni e il linguaggio permetteva di connettere le cose. Non era un problema questa triade che si era andata costituendo. Il discorso che nel XVII secolo legò l'uno all'altro, l'io penso e l'io sono, di colui che si accingeva a farlo, tale discorso rimase in forma visibile l'essenza stessa del linguaggio classico, poiché ciò che in esso veniva con pieno diritto collegato erano la rappresentazione e l'essere. Il passaggio dall'io penso all'io sono si compiva alla luce dell'evidenza. Di nuovo, il fantasma di Cartesio che vi appare in maniera pregnante all'interno di questo discorso. Perché non c'è questo problema del linguaggio? Perché le cose sono evidenti, perché nel momento in cui io applico il metodo, nel momento in cui faccio un'operazione di analisi che mi permette di arrivare alla scomposizione delle cose, quando acquisisco questo livello di evidenza pura delle singole entità scomposte, quando sono lì poi potrò andare a ricostruire, potrò andare ad attuare il processo inverso che mi porta alla sintesi. E quando possiedo la sintesi, il mio apparato epistemologico di garanzia della conoscenza è fondato. Hume aveva problematizzato questo in maniera radicale, ponendo la questione del fascio di sensazioni che non si ricomponeva. Kant lo fa esplodere, ma anche Kant è aporetico, perché quando pone l'ich denke, quando pone l'io penso, Kant non riesce a giustificare l'io penso se non alla luce di un'idea di ragione. Cioè deve andare a porre un oggetto metafisico, di nuovo, che legittimi il soggetto. Cioè costruisce, nella prima parte della critica della ragion pura, un sistema concettuale raffinatissimo, quando deve andare a costruire l'unità del soggetto che tenga in piedi questo sistema concettuale, detto in maniera brutale, ricicla l'idea di anima, perché si rende conto che, di nuovo, l'idea Dio, mondo, anima, l'idea dell'anima gli serve per ritornare, anche se chi menti sgrana gli occhi. Quindi vuol dire che il trascendentale, che quel trascendentale lì non può fare una del trascendente, sa? Esatto. Pensa di auto, assolutamente, sì. In realtà non gli riesce. Esatto, ripeto perché magari non si è sentito nel microfono, Caroni osservava il passaggio e sintetizzava per legittimare, per trovare una forma che giustifichi il trascendentale, Kant torna al trascendente. E il soggetto kantiano, su questo sono abbastanza convinto, questo è un tema ampio di discussione, è in sé aporetico e in sé non autofondato. Tutto il resto sì. Il soggetto kantiano in questo ha bisogno di altro, ha bisogno di un trascendente che, tornando indietro nella storia della filosofia, era la stessa anima di cui anche Cartesio aveva dovuto, a cui anche Cartesio aveva dovuto ricorrere. E quindi, dato questo scenario dell'episteme classica, Foucault introduce uno dei quattro momenti di analisi fondamentale delle episteme moderne. Questi quattro momenti sono: analitica della finitudine, l'allotropo o allotropo empirico trascendentale, il cogito e l'impensato e il ritorno all'origine. Quattro titoli di paragrafi che troviamo nell'ultima parte del libro. Cos'è questa analitica della finitudine, che sarebbe uno dei nuclei tematici fondamentali della contemporaneità? Mi riallaccio strettamente a quello che si stava dicendo prima. Per i viventi, per i bisogni e per le parole, pagina 337, la rappresentazione cessa immediatamente di valere in quanto luogo d'origine e sede prima della loro verità. Nei loro riguardi essa non è più ormai che un effetto, il loro mallevatore più o meno confuso in una coscienza che li coglie e li restituisce. La rappresentazione che ci si fa delle cose non deve più dispiegare in uno spazio sovrano il quadro del loro ordinamento. Nei riguardi di quell'individuo empirico che è l'uomo, essa è il fenomeno, se non addirittura l'apparenza, di cosa? Di un ordine che appartiene ora alle cose stesse e alla loro legge interna. Nella rappresentazione, gli esseri non manifestano più la loro identità, ma il rapporto esterno che stabiliscono con l'essere umano. Questo, col suo essere proprio, col suo potere di darsi delle rappresentazioni, questo è un passaggio fondamentale, sorge in una cavità predisposta dai viventi. Qua è una delle prime volte che Foucault utilizza l'espressione essere umano. L'essere umano sorge in una cavità predisposta dai viventi, dagli oggetti di scambio e dalle parole, quando questi, abbandonando la rappresentazione che era stata fino allora il loro sito naturale, si ritirano nella profondità delle cose e la avvolgono su sé medesimi secondo le leggi della vita, della produzione e del linguaggio. A volte è abbastanza difficile penetrare il linguaggio delle parole e le cose. Però qui abbiamo un movimento che Foucault va a descrivere in questa maniera. Abbiamo innanzitutto vita, produzione e linguaggio. Vita, produzione e linguaggio che si ritirano dal mondo delle rappresentazioni e, come avevamo detto all'inizio, vanno per un fenomeno che non viene, di cui non si spiega il perché, vanno malcome, vanno a ritrarsi nel mondo delle cose. L'essere umano nasce nel momento in cui c'è questo vuoto, questa cavità, ok, come dice Foucault in questo passaggio, che nasce dal fatto che il mondo delle rappresentazioni sia stato abbandonato. L'uomo nasce nel momento in cui la relazione, la sua relazione con l'oggetto, cambia completamente di statuto. Come dice in un passaggio successivo, che è fondamentale perché sarà uno di quelli più associati in assoluto a tutte le evoluzioni successive del pensiero foucaultiano, a pagina 338. In un certo senso, come nasce questo essere umano? In un certo senso, l'uomo è dominato dal lavoro, dalla vita e dal linguaggio. La sua esistenza concreta trova in essi le proprie determinazioni. Si può accedere all'uomo solo attraverso le sue parole, il suo organismo, gli oggetti che fabbrica, come se questi inizialmente, questi soli forse, detenessero la verità. E l'uomo medesimo, non appena pensa, si svela ai propri occhi soltanto nella forma di un essere che è già in uno spessore necessariamente sottostante entro un'irriducibile anteriorità, un vivente, uno strumento di produzione, un veicolo per parole che gli preesistono. Foucault sta dicendo qui qualcosa di assolutamente radicale. Cos'è questa analitica della finitudine umana? È forse la tensione più forte in assoluto della produzione foucaultiana successiva, quella per cui il soggetto è assoggettato, il soggetto è suddito, e qua già troviamo un elemento fortissimo. Foucault non è ancora consapevole delle dinamiche di potere, naturalmente, però qua è consapevole assolutamente di un altro tipo di dinamica. Qua ci sta dicendo che qua, nel momento in cui noi ci poniamo nel mondo, c'è tutta una parte di noi che ci determina preesistendoci completamente rispetto a quello che siamo. Cioè, ogni nostra possibilità, usando una parola poco foucaultiana, autopoietica, passa da una vita, da un linguaggio e da un lavoro che noi non maneggiamo, ma che al contrario ci fondano. Usiamo parole che sono nostre, usiamo sistemi di produzione in cui andiamo ad inserirci e possediamo una vita che non abbiamo scelto, in poche parole. Qua Foucault sta appunto iniziando, ha intuito, ha visto una delineazione del soggetto nell'età moderna, in cui appunto, secondo questi tre pilastri dell'Occidente di cui sta parlando massicciamente in questo libro, vita, linguaggio, o forse pilastri del soggetto direi, vita, linguaggio e lavoro, l'uomo compare. Tutti questi contenuti che il suo sapere gli rivela esterni e più vecchi della sua nascita, lo precorrono, lo sovrastano nell'intera loro saldezza e lo traversano come se non fosse altro che un oggetto di natura o un volto destinato a cancellarsi nella storia. La finitudine dell'uomo si annuncia, e in modo imperioso, nella positività del sapere. Si sa che l'uomo è finito nel modo stesso in cui si conosce l'anatomia del cervello, il meccanismo dei costi di produzione o il sistema della coniugazione indoeuropea, o piuttosto nella filigrana di tutte queste figure solide, positive e piene, vengono percepiti la finitudine e i limiti da esse imposti, viene intravisto come in bianco tutto ciò che esse rendono impossibile. Cos'è che esse rendono impossibile? È qualsiasi ipotesi sul contrario della finitudine. Di nuovo qua Foucault sta andando sempre di più verso la delineazione di un soggetto totalmente storicizzato, di un soggetto totalmente privo di fondamento. In questo momento non si stanno escludendo le metafisiche dell'uomo tout court, si stanno escludendo tutte quelle metafisiche che pongono l'uomo su un piano di non finitudine, su un piano infinito, su un piano in cui ci sia qualcosa di sostanziale o qualcosa di essenziale che appartiene all'essere umano, appunto. La finitudine dell'uomo si annuncia nella positività del sapere, nell'apparizione del sapere. Si sa che l'uomo è finito nel modo stesso in cui si conosce l'anatomia del cervello, il meccanismo dei costi di produzione, il sistema di coniugazione. Cioè, quando appare questo tipo di sapere, coeva questo tipo di sapere, l'uomo va ad occupare questo tipo di posizione. Come dice alla pagina successiva, pagina 339, il modo d'essere della vita e il fatto che questa non possa esistere senza prescrivermi le sue forme mi sono dati fondamentalmente dal mio corpo. Il modo d'essere della produzione, la pesantezza delle sue determinazioni sulla mia esistenza mi sono dati dal mio desiderio. E il modo d'essere del linguaggio, l'intera scia di storia che le parole fanno brillare nell'istante in cui vengono pronunciate, e forse anche per un tempo ancora più impercettibile, non mi sono dati che nella tenue catena del mio pensiero parlante. Il mio corpo, il mio desiderio, il mio pensiero parlante. Alla base di tutte le positività empiriche, e di quanto può essere indicato come limitazione concreta all'esistenza dell'uomo, si scopre una finitudine che in un certo senso è la stessa. È contrassegnata dalla spazialità del corpo, dall'apertura del desiderio e dal tempo del linguaggio, i tre assi della finitudine. E ciò nonostante radicalmente diversa. Ivi il limite non si manifesta in quanto determinazione imposta all'uomo dall'esterno, ma in quanto finitudine fondamentale basata solo sul proprio fatto e aperta alla positività di ogni limite concreto. Ripeto, ivi il limite non si manifesta in quanto determinazione imposta all'uomo dall'esterno, perché egli ha una natura alla storia, una modalità di limite, ma in quanto finitudine fondamentale basata solo sul proprio fatto, sul fatto che c'è, si pone, è aperta alla positività di ogni limite concreto, cioè aperta rispetto al nostro incontro con il mondo delle cose. Così, dal cuore stesso dell'empiricità, dal nostro incontro con le cose, viene indicato l'obbligo di risalire, o se si preferisce di discendere, fino a un'analitica delle affinitudini, in cui l'essere dell'uomo potrà fondare nella loro positività tutte le forme che gli indica che non è infinito. E il primo carattere di cui tale analitica contrassegnerà il modo d'essere dell'uomo, o piuttosto lo spazio in cui essa si dispiegherà per intero, sarà quello della ripetizione dell'identità della differenza fra il positivo e il fondamentale, la morte, che rode anonimamente l'esistenza quotidiana del vivente, è identica a quella fondamentale a partire dalla quale viene data a me stesso la mia vita empirica. Punto primo. La vita che abbiamo visto come forma di finito che si rovescia nella morte, come forma, come corrispettivo, come secondo lato della medaglia, come ulteriore forma concreta di finitudine. Il desiderio che lega e separa gli uomini nella neutralità del processo economico è lo stesso a partire da cui ogni cosa è per me desiderabile. Quindi il mio desiderio che si rovescia nell'oggetto desiderato, o meglio, nella possibilità di espressione di desiderio incarnata dall'oggetto, altro secondo limite. Il tempo che porta i linguaggi che abita in essi e finisce con l'usarli è il tempo che distende il mio discorso prima ancora che io lo abbia pronunciato, in una successione che nessuno può dominare. E quindi, in questo caso, abbiamo una temporalità che, come dice qua, distende il discorso, ma lo distende prima ancora che io lo abbia pronunciato, il discorso come limite. Perché il discorso come limite? Perché è il limite del discorso che chiaramente porrà il limite del mio pensiero e quindi una delle mie limitazioni d'essere. Quindi il primo momento che Foucault va ad indagare come caratteristica fondamentale dell'episteme della modernità è proprio quello dell'analitica della finitudine, cioè il fatto che ci sia un'acquisizione fondamentale sull'uomo e che questa acquisizione fondamentale passi da un qualcosa che comunque pone dei limiti, da un qualcosa che comunque è finito. Siete messi? Perfetto. Passiamo al secondo punto. Il titolo del paragrafo è quello empirico e trascendentale. Subito a pagina 343 troviamo una definizione chiarissima. L'uomo, nell'analitica della finitudine, è uno strano allotropo, in francese doublé, empirico trascendentale, dal momento che è un essere tale che in esso verrà acquistata conoscenza di ciò che rende possibile ogni conoscenza. Questa è una definizione veramente ficcante. È un essere tale che in esso verrà acquistata conoscenza di ciò che rende possibile conoscenza. Cioè, noi conosciamo, ma conosciamo anche le condizioni di possibilità per le quali conosciamo. Noi viviamo la dimensione dell'empirico degli oggetti, ma viviamo anche la dimensione trascendentale che individua le condizioni di possibilità che rendono possibile la condizione, che rendono possibile la conoscenza degli oggetti. Siamo appunto un allotropo, siamo un doublé, siamo un qualcosa che si associa. La soglia della modernità, della nostra modernità, non è infatti situata nel momento in cui si sono voluti applicare allo studio dell'uomo metodi oggettivi. Qua sta introducendo un passaggio molto importante, ma quando si è costituito un allotropo empirico trascendentale che è stato chiamato uomo. Ripeto, la nostra modernità non è situata nel momento in cui si sono voluti applicare allo studio dell'uomo metodi oggettivi. Cioè, la modernità non nasce nel momento in cui noi andiamo ad oggettivizzare o applichiamo metodi oggettivi all'uomo. Ok? L'episteme della modernità Foucault dice, individua come momento fondamentale quello allotropico, quello in cui noi conosciamo e allo stesso tempo fondiamo la conoscenza, conosciamo il fondamento della conoscenza. Non è la stessa cosa. Non stiamo dicendo noi come una colata di cemento andiamo a applicare sull'uomo le scienze che applichiamo in altri contesti. Il passaggio fondamentale è noi conosciamo, ma sappiamo perché conosciamo, o meglio sappiamo le condizioni per le quali conosciamo. Detto in un'altra maniera, noi pensiamo ma allo stesso tempo riflettiamo, pensiamo il pensiero e riusciamo a giustificare il pensiero in una certa maniera. L'uomo nasce come secondo momento, appunto, questo momento dell'allotropo tra l'empirico e il trascendentale con questo tipo di riflessioni. Si videro allora nascere due sorte d'analisi da questa condizione di allotropo. Quelle che si situarono nello spazio del corpo e che, attraverso lo studio della percezione dei meccanismi sensori, degli schemi neuromotori, dell'articolazione comune alle cose e all'organismo, hanno funzionato come una sorta di estetica trascendentale. Come percepisce l'uomo, come sente, come funziona tutto questo aspetto? Perché, dice qua Foucault, usando un accostamento terminologico molto bello, estetica trascendentale? Perché si cerca di dare una fondazione all'estetica che non è assolutamente più quella settecentesca, si cerca di dare una fondazione all'estetica che passa da tutta una serie di apparati scientifici per cui l'estetica è giustificata in una maniera diversa rispetto a prima. Non stiamo più parlando del certo non so che di Leibniz, stiamo parlando appunto di meccanismi sensori, ok? L'estetica è la scienza della sensazione, come funzionano i sensi? Stiamo parlando di meccanismi percettivi, come funziona tutto l'apparato percettivo, come funziona l'apparato neuromotorio, come funziona il corpo, ciò che rende possibile un'estetica. Dall'altro lato, però, secondo punto, oltre a quello che apre lo spazio del corpo e lo investiga, veniva in tal modo mostrato che la conoscenza, alto versante della medaglia, aveva condizioni storiche, sociali e economiche, che si formava all'interno dei rapporti che si tramano fra gli uomini e che non era indipendente dalla figura particolare che questi potevano assumere qua e là. In una parola, che esisteva una storia della conoscenza umana, la quale poteva essere data al sapere empirico nello stesso tempo prescrivere questo le sue forme. Quindi da questo allotropo empirico trascendentale nascono due maniere di vedere le cose. Da un lato abbiamo l'uomo che viene bucato e che viene visto nel suo meccanismo di funzionamento dall'interno. Dall'altro però abbiamo l'uomo che viene collocato su uno sfondo e che viene analizzato in relazione appunto a queste empiricità che si sono trovate sullo sfondo. E quindi abbiamo le condizioni storiche, sociali e economiche che fanno nascere un filone diverso di scienze con cui noi andiamo a vedere questo uomo. E qua c'è un'altra osservazione en passant veramente bella. Perché? Perché noi ereditiamo questa tradizione e Foucault ci sta dicendo come sta nascendo questa tradizione. Tali analisi possiedono questo di particolare. Esse non hanno, sembra, alcun bisogno le une delle altre. Cioè non abbiamo più bisogno di una matesis comune. Noi abbiamo una fisiologia dell'occhio che può andare avanti in maniera del tutto dipendente dall'analisi dell'economia. Anzi, possono dispensarsi da ogni ricorso a un'analitica o a una teoria del soggetto. Cioè, scusatemi, finisco. Pretendono di poter poggiare che di poter non poggiare che su sé medesime, in quanto sono i contenuti stessi che funzionano come riflessione trascendentale. Ma in realtà la ricerca di una storia della conoscenza nel movimento in cui vi porta alla dimensione propria della critica e contenuti di una conoscenza empirica presuppone l'uso di una certa critica. Ovvero Foucault sta dicendo, nascono delle scienze senza soggetto, nascono delle scienze che si autolegittimano e che interrompono, o meglio, che escludono, che non hanno bisogno di un soggetto che le pensi. L'occhio funziona in una certa maniera perché funziona così, non abbiamo bisogno di uno sfondo, di un soggetto che pensi questo pensiero, le discipline stoiche anche. È per questo, pagina 345, che il pensiero moderno non ha potuto evitare, proprio a partire da un tale discorso ingenuo, di cercare il luogo di un discorso che non fosse né dell'ordine della riduzione né dell'ordine della promessa. Un discorso, scusatemi, qua sto andando veloce verso un altro punto, un discorso la cui tensione mantenesse separati l'empirico e il trascendentale, consentendo tuttavia di mirare all'uno e all'altro contemporaneamente. Qual è questo tipo di discorso che consente di mirare all'empirico, al trascendentale, al mondo delle cose e alle condizioni di possibilità della conoscenza e al soggetto? Una funzione così complessa, così iperdeterminata e così necessaria è stata svolta nel pensiero moderno dall'analisi del vissuto. Il vissuto, infatti, è, a un tempo, lo spazio in cui tutti i contenuti empirici vengono dati all'esperienza e anche la forma originaria che li rende in genere possibili e ne designa il radicarsi prima. Quindi, in questo capitolo cosa sta dicendo Foucault? C'è una separazione, però c'è anche un tentativo di conciliazione. Questo tentativo di conciliazione è la scienza del vissuto. Perché la scienza del vissuto? Perché alla luce di quello che abbiamo detto prima dovrebbe risultare abbastanza evidente. Nell'analisi del vissuto noi cerchiamo di capire sia il mondo delle parole che il mondo delle cose, il mondo del soggetto e il mondo dell'oggetto. Cerchiamo di porre una continuità fra territori che in altri momenti sono assolutamente separati. Il mondo del vissuto è un tentativo di approccio all'esperienza che ci permetta di mettere su uno stesso piano il soggetto e l'oggetto. A Husserl ci arriva dopo quando sviluppa, esatto, già ci siamo molto vicini, assolutamente. No, assolutamente, infatti dopo, nel Cogito nell'impensato, c'è proprio il confronto con Husserl in maniera abbastanza precisa. Quando accennavo all'inizio che qua Foucault non sta parlando solo del suo lavoro, ma in costante dialogo con tutta una serie di apparati di pensiero che gli sono anche contemporanei, è proprio questo, in filigrana. Dopo si leggerà tantissimo Heidegger e tantissimo Husserl, anzi che vengono esplicitati. Per chiudere sulla parte del vissuto, si può ben comprendere che l'analisi del vissuto si sia instaurata nella riflessione moderna in quanto contestazione radicale del positivismo, ossia di una prospettiva totalmente basata sulle datità di fatto, sul mondo degli oggetti, sulla fattualità delle cose e dell'escatologia. Qua si sta confrontando di nuovo in filigrana con Comte da una parte e, se vogliamo, Hegel e Marx dall'altra. L'escatologia nel senso di un apparato teorico che ci dica la finalità del soggetto. Il vissuto lo vede qua Foucault come riconciliazione fra un mondo fatto di cose e un mondo ordinato indipendentemente dalle cose in cui l'uomo ha un suo fine, ha un suo posto, ha una direzione verso cui andare. Che abbia tentato di restaurare la dimensione dimenticata del trascendentale, perché ha cercato di trovare questo nesso tra trascendentale e cose. Che abbia voluto scongiurare il discorso ingenuo di una verità ridotta all'empirico e il discorso profetico che promette ingenuamente, da ultimo, l'avvento entro il campo dell'esperienza di un uomo. Di nuovo, questa frase è tranchant. Che abbia voluto scongiurare il discorso ingenuo di una verità ridotta all'empirico è Comte, è il positivismo del XIX secolo, l'ultimo forse grosso tentativo della filosofia occidentale di porre nel mondo delle cose un principio di verità. Dall'altra parte, però, l'altro grandissimo confronto è il discorso profetico, e le parole qui sono importanti perché, di nuovo, perché il discorso profetico è il discorso di tanti contemporanei di Foucault, che poi di fatti negli anni successivi Sartre per primo avrebbero attaccato violentemente, pesantemente questo libro, il discorso profetico che promette ingenuamente, da ultimo, l'avvento, e qua con veramente una cattiveria feroce parla di profezie di avvento, cioè sta usando il vocabolario del cristianesimo, Foucault, entro il campo dell'esperienza di un uomo. Cioè Hegel, Marx, o meglio, i suoi contemporanei hegeliani, i suoi contemporanei marxisti, non starebbero facendo nient'altro che superare in maniera ingenua una frattura epistemologica tra soggetto e oggetto, ponendo l'avvento di un uomo che da solo, tenendosi per la testa, va a risolvere questa frattura, che sia il lavoratore liberato di Marx piuttosto che lo spirito assoluto di Hegel. Il tentativo del vissuto, che qua usa come grimaldello per avversare queste teorie, è un tentativo. Adesso continuerei presentando il terzo punto, che è il cogito e l'impensato. Ripeto il titolo, il cogito e l'impensato. Chiaramente di nuovo qua lo sparring partner, il punto di partenza è sempre René Descartes. Se l'uomo è davvero nel mondo il luogo di una duplicazione empirico-trascendentale, quello che abbiamo appena detto, se deve essere la figura paradossale in cui i contenuti empirici della conoscenza liberano, ma a partire da sé, le condizioni che le resero possibili, penso che sia tutto chiaro, l'uomo, conseguenza, non può darsi nella trasparenza immediata e sovrana di un cogito. Cioè, non possiamo porre un cogito cartesiano se le cose stanno così. Ma neanche può risiedere nell'inerzia oggettiva di ciò che di diritto non accede e non accederà mai alla conoscenza di sé, alla coscienza, scusatemi, di sé. Come possiamo porre il mondo della verità nelle cose quando le cose non possiedono né un mondo, né una verità, né una coscienza, né nulla? Come possiamo porre un mondo della verità presupponendo da un soggetto? Come possiamo parlare di verità senza parlare dell'uomo? L'uomo è un modo d'essere tale che in lui si fonda la dimensione sempre aperta, mai delimitata una volta per tutte, ma incessantemente percorsa. Foucault probabilmente non ha mai letto Essere Tempo di Heidegger, però è ben conscio sia dell'esistenzialismo che dell'ermeneutica. E qua Heidegger è pesantemente dietro, sullo sfondo. Ma incessantemente percorsa che va da quella parte di lui che egli non riflette in un cogito all'atto di pensiero attraverso il quale egli la recupera. Cos'è la parte di lui che egli non riflette in un cogito? Il mondo delle cose, all'atto di pensiero attraverso il quale egli la recupera, il pensiero, e che inversamente va da tale puro possesso all'ingombro empirico, cioè che va dalla nostra coscienza, se vogliamo usare una terminologia husserliana, al mondo delle cose, all'ascesa disordinata dei contenuti, all'incombere delle esperienze che sfuggono a se stesse, all'intero orizzonte silenzioso di ciò che si dà nella distesa sabbiosa del non pensiero. Husserl presentava questo mondo come il mondo dell'intenzionalità fungente, cioè di quel mondo che ci sta sempre intorno, ma che non è in una relazione di pensiero, ma che il pensiero può attualizzare in un determinato momento. E questo è lo sfondo di cui sta parlando Foucault in questo momento. Per il fatto di essere un allotropo empirico trascendentale, l'uomo è anche luogo del disconoscimento, di quel disconoscimento che espone sempre il suo pensiero a venir sopravanzato dal suo essere e che gli consente a un tempo di recuperare se stesso a partire da ciò che gli sfugge. A me piace moltissimo questa frase. Il luogo del disconoscimento che espone sempre il suo pensiero a venir sopravanzato dal suo essere. Cioè, il fatto che ci siamo, il fatto di un essere sovrabbondante rispetto al pensiero, che il pensiero continua a cercare di afferrare, di un mondo, non importa di che cosa sia questa realtà, ma è il nostro essere, Heidegger avrebbe detto, il nostro essere nel mondo, che costituisce il limite che il pensiero deve andare in continuazione ad afferrare, e a cui per tuttavia il pensiero non riuscirà mai, che tuttavia il pensiero non riuscirà mai totalmente ad esaurire, per un discorso di spazialità, ma soprattutto per un discorso di temporalità, e che gli consente a un tempo di recuperare se stesso a partire da ciò che gli sfugge. È un passaggio filosofico piuttosto fine. Il pensiero trova se stesso solo nel momento in cui incontra qualcosa che gli sta sfuggendo, nel momento in cui il pensiero ha una dimensione non statica, ma ha, usando un altro vocabolario, una dimensione processuale infinitamente continua. È questo l'impensato del titolo, è questo dualismo cogito impensato, cogito che non è più il cogito cartesiano che fonda un essere, ma un cogito disallineato dall'essere che vive sempre l'impensato come un momento che sta andando sempre a catturare. A pagina 348, la domanda non è più come può accadere che l'esperienza della natura dia luogo a giudizi necessari, ma come può accadere che l'uomo pensi ciò che non pensa, abiti ciò che gli sfugge nella forma di un'occupazione muta, animi con una sorta di moto rappreso quella figura di sé che coglie nella forma di un'esteriorità testarda. Questo sarà uno dei grossissimi temi del Novecento. Come si può pensare l'impensato? Cos'è questa scintilla, questo atto per cui il pensiero va a generarsi, o forse meglio, ad autogenerarsi? Cos'è, usando un vocabolario che non è foucaultiano sicuramente, però deleuziano sì, parzialmente, quest'atto di creazione? È scritto qui, è questa la domanda, come può accadere che l'uomo pensi ciò che non pensa? Come possiamo portare avanti il nostro pensiero? Come possiamo abitare ciò che gli sfugge nella forma di un'occupazione muta? Come possiamo occupare un mondo che in continuazione noi non possiamo mai esaurire e che non possiamo mai conoscere completamente? Come può l'uomo coincidere con quella vita, il cui reticolo, le cui pulsazioni, la cui forza sepolta incessantemente travalicano l'esperienza che gliene viene immediatamente offerta? Così come se appunto noi viviamo sempre in questa dimensione di surplus che dobbiamo in continuazione andare a colmare. Come può identificarsi con quel lavoro le cui esigenze e leggi si impongono a lui nella forma di un rigore estraneo? Cioè, come possiamo riappropriarci delle cose che facciamo? Appropriarci, forse meglio. Come può essere il soggetto di un linguaggio che da millenni si è formato senza di lui, il cui sistema gli sfugge, il cui senso dorme d'un sonno quasi invincibile, entro le parole che per un istante egli stesso fa scintillare col suo discorso, all'interno del quale è, fin dall'inizio, costretto a porre la propria parola e il proprio pensiero, come se questi non avessero altra possibilità che di animare per un po' un determinato segmento su tale trama di possibilità e numeri? Quadruplice spostamento nei riguardi della domanda kantiana, dal momento che non si tratta più della verità, cosa si rende ogni conoscenza vera, ma dell'essere, cosa siamo, non più della natura. Per qua Foucault sta usando natura sempre in un senso molto preciso. Natura per lui è ciò che non è natura umana. Cioè, natura è il fuori dall'uomo. È la fisica, è la fisica. Sì. Non più della natura, ma dell'uomo. E di nuovo, qua vedete come continuamente torniamo. Come è stato possibile che si siano costituite delle scienze dell'uomo? E qua, goccia dopo goccia, ci viene a dire come si è costituito questo uomo. non più della possibilità di una conoscenza, ma di quella di un disconoscimento primo. Qua siamo in pieno territorio hegeliano, che poi incrociamo meglio. Non più del carattere non fondato delle teorie filosofiche di fronte alla scienza, ma del recupero in una coscienza filosofica chiara dell'intero campo di esperienze non fondate ove l'uomo non si riconosce. Questo è un passaggio fondamentale perché è una delle innumerevoli risposte, ma è una delle più belle, a che cos'è la coscienza filosofica, che cos'è il pensare filosofico. Il pensare filosofico è quello che cerca di comprendere l'intero campo delle esperienze dove l'uomo non si riconosce. La filosofia è il luogo dell'impensato, o meglio, è il pensiero che si pone nel luogo di ciò appunto che l'uomo non ritrova, di quello che sfugge. A pagina, che ore sono? 8, scusate, finisco questo passaggio, poi penso che mi approprierò di Antonio di 15 minuti la prossima settimana. Finisco la parte sul cogito e l'impensato. Forse, non lo so. Nel cogito moderno si tratta al contrario di lasciar valere nella sua dimensione massima la distanza che a un tempo separa o unisce il pensiero riflesso e ciò che dal pensiero si radica nel non pensiero. Il cogito moderno deve percorrere, duplicare e riattivare in una forma esplicita l'articolazione del pensiero su ciò che in esso, intorno ad esso e al di sotto di esso, non viene pensato e che tuttavia non è per questo fatto estraneo al pensiero nei modi di un'esteriorità irriducibile e insuperabile. In tale forma il cogito non sarà pertanto l'improvvisa scoperta illuminante che ogni pensiero è pensato, Cartesio, ma l'interrogazione continuamente ripresa, quindi c'è questa dimensione processuale che Foucault becca precisamente, al fine di sapere come il pensiero possa abitare al di fuori di sé e sia tuttavia vicinissimo a sé medesimo, come esso possa essere sotto la specie del non pensante. Uno dei temi della modernità è questo equilibrio sempre instabile del pensiero fra il ritrarsi nel luogo del medesimo e il dover di necessità entrare sempre nella dimensione dell'altro, perché nessuna di queste due cristallizzazioni funziona più. Il cogito moderno riconduce appunto l'intero essere delle cose al pensiero, ma ramificando l'essere del pensiero fin dentro la nervatura inerte di ciò che non pensa. E sarà lì, in questo movimento continuo fra il pensiero e il non pensiero, che si va a porre uno dei temi fondamentali della nascita dell'uomo. Tale doppio movimento, proprio del cogito moderno, spiega perché l'io penso non porta in esso l'evidenza dell'io sono. Non appena infatti l'io penso si mostra coinvolto in tutto uno spessore in cui è quasi presente, non è più possibile farne derivare l'affermazione io sono. Infatti, posso forse dire di essere questo linguaggio che io parlo? Chiaramente sono tutte domande retoriche, e in cui il mio pensiero penetra al punto da trovare il sistema di tutte le proprie possibilità, ma che tuttavia esiste soltanto nella pesantezza di sedimentazioni che non potranno mai venire interamente attualizzate da questo mio pensiero. Posso forse dire di essere questo lavoro che faccio con le mie mani, ma che mi sfugge non solo quando l'ho finito, ma prima ancora che l'abbia iniziato? Posso forse dire di essere questa vita che sento in fondo a me e che tuttavia mi avvolge, sia quel tempo formidabile che spinge seco e mi issa un istante sulla mia cresta, sia altresì quel tempo imminente che mi prescrive la mia morte? Che cos'è dunque quest'essere che scintilla e per così dire ammicca nell'apertura del cogito senza essere dato sovranamente in esso e da esso? Qual è dunque il rapporto e l'ardua appartenenza dell'essere e del pensiero? L'essere dell'uomo, scusatemi, si instaura a questo punto una forma di riflessione in cui viene per la prima volta problematizzato l'essere dell'uomo nella dimensione secondo la quale il pensiero si rivolge all'impensato e su questo si articola. Una delle ultime parole con cui verrà battezzato questo impensato sarà Lebensfeld, e direi di chiudere qui ricominciando con Husserl, che analizzerà Foucault la prossima volta. Il mondo della vita. Un riepilogo brevissimo, so che è tardi. Oggi abbiamo visto la premessa su tutta la nascita della modernità, no. E abbiamo visto tre momenti. Hai chiuso? No, se riepilogo puoi ascoltare così ascolto. Sì. Ok, vado. Sì, quindi scusatemi, un riepilogo odierno. Quindi abbiamo individuato la frattura della modernità, abbiamo visto Kant come uno degli snodi fondamentali e tutto quello che discende dal kantismo. La divisione delle scienze che cosa ha portato e che cosa ha complicato in ambito epistemologico, abbiamo ripreso il cogito cartesiano per vedere poi due momenti, l'analitica della finitudine, l'allotropo empirico trascendentale e il cogito, l'impensato, come tre passaggi sempre sullo sviluppo di questo tema. Il tema fondamentale che a questo punto andremo a chiudere la prossima volta nella maniera più rapida possibile sarà come è stato possibile che nascesse qualcosa che si chiama uomo, che abbiamo chiamato uomo, su cui abbiamo instaurato delle scienze che abbiamo chiamato scienze umane. E poi, dopo che avrò chiuso questa parte, si passerà a forse il testo da cui nasce la maturità del pensiero foucaultiano, che è l'archeologia del sapere. Grazie a tutti. Thank you. Che si è dimenticato.